Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko. 451 intersezioni ritorna come ogni giovedì notte o venerdì, insomma decidete voi, in realtà la data e la giornata predestinata è il giovedì, anche se noi siamo veramente a cavallo, a mezzanotte tra il giovedì e il venerdì. Questo secondo me può essere interessante, sembra quasi una sorta di buco temporale o spaziale che ci permette un po' di delirare in questo spazio sonoro. 451 intersezioni, trasmissione legata alla sperimentazione, alla musica di ricerca, d'avanguardia, ma anche politicamente scorretta e fuori sicuramente dal coro mediatico mainstream, ma non siamo certamente vicini ai 5 Stelle, siamo compagni di aria, di movimento, quel che ne rimane o i residui un po' decomposti in questa fase storica, ma speriamo sempre di, anche noi attraverso i programmi radiofonici del Network 451, di dare un po' di scosse, un po' di contributo a questo ectoplasma che continua a vagare in Italia e in Europa, quello che era una volta il movimento libertario, comunista e rivoluzionario, quello che è diventato poi il movimento no global e quello che è diventato anche negli ultimi anni un movimento anti, ma poi non si ben capisce bene, insomma, dove si sta dirigendo questo movimento e da che parti, da che corporeità e da collettivi è costituito. Beh, al di là di questa piccola parentesi qualcuno si sarà forse spaventato e non ridito, ma vi ricordo ovviamente che 451 intersezioni fa parte del progetto collettivo 451 e in questo vi ricordo sempre il nostro blog no blog, che è 451frammentisonori.noblogs.org, dove troverete tutte le informazioni sia sulla trasmissione 451 intersezioni, che va in onda sempre ogni giovedì da mezzanotte a l'una, una e mezza circa su Radio Città Fujiko, e lo spazio anche di 451 frammenti sonori, che va in onda il mercoledì notte dalle 23 all'una circa, condotta dal compagno amico Max Macchia. E all'interno della trasmissione 451 frammenti sonori c'è lo spazio Futuri Rumori, che è un contenitore nuovo nato proprio in questa stagione radiofonica 2015-2016, dedicato ai materiali di gruppi, progetti, tutto quello che volete in ambito sperimentale underground, non solo italiano ma anche europeo, che appunto è creato per far sì che molte realtà underground poco conosciute mandino i loro materiali in qualsiasi formato, MP3 e quant'altro, e noi ovviamente come un minimo di scheda introduttiva del progetto manderemo in onda nello spazio del mercoledì notte questi progetti, come ha fatto ad esempio ieri notte il buon Max Macchia con l'ottima trasmissione dedicata a un gruppo veramente molto interessante della scena greca. Dunque vi invitiamo ad andare sul nostro blog per avere le informazioni dove spedire, dove mandare questi materiali, è importante per il progetto aperto collettivo di 451. Ebbene, 451 intersezioni, come al solito il pippone iniziale di presentazione, andiamo subito a svelare l'arcano che programma e che percorso sonoro stasera tratteremo. Vi voglio ricordare tra parentesi che ormai praticamente tra qualche giorno sono 2 anni esatti dell'insediamento di Matteo Renzi al governo, e dunque sono 2 anni veramente di disastri, anche se molti continuano, ovviamente i pennivendoli di regime continuano a incensare questo governo, i disastri sociali e chi più ne ha più ne metta su un governo praticamente di destra destra, mascherato di centrosinistra, insomma una roba devastante che vediamo poi anche nelle varie diramazioni locali e cittadini, che guai e che disastri ha combinato, da sgomberi a repressioni a denunce a quant'altro, anche a forme di incarceramento. Dunque insomma i figli e figliocci di Renzi producono questo, il caro PD al governo ha prodotto questo vero e proprio mostro, Matteo Renzi, che continuerà probabilmente a governare chissà per quanto, che altre sorprese ci troveremo dietro l'angolo. E la trasmissione di stasera tratterà proprio di Matteo Renzi, no scherzo ovviamente, non vorremmo rovinarci la nottata. La trasmissione di stasera è un percorso sonoro che viene ripreso esattamente un anno fa, è stato fatto nella prima stagione di 451 intersezioni 2014-2015, proprio nel mese di febbraio abbiamo diciamo programmato e percorso le strade di percezioni stranianti, e stasera appunto riprendiamo quel tipo di percorso musicale, percezioni stranianti capitolo 2, era stato sottotitolato l'arte dello smarrimento sensoriale, dunque progetti musicali e sonorità che smarriscono, che confondono, un po' deliranti, un po' alienate, un po' disarticolate, un po' assurdiste, l'idea proprio dello smarrimento dei sensi. Ma stasera diciamo c'è un ulteriore sottotitolo che è appunto la razionalità decomposta, dunque percezioni stranianti capitolo 2, l'arte dello smarrimento sensoriale, la razionalità decomposta. In questa razionalità che viene decomposta, decostruita e smantellata in un'ottica ovviamente liberatoria, dove l'aspetto animale, irrazionale e assurdo esprime la sua massima potenza, l'unica formazione che andiamo a riprendere dalla trasmissione di un anno fa sono gli Starcase, formazione sotto traccia, un po' nascosta, molto amata diciamo dagli addetti ai lavori, che si muove attraverso dei canali assolutamente informali, con un progetto che è nato nel 2010, prodotti tutti gli album dall'American Tapes fino al 2011, che è proprio il disco che andremo a trovare. Dunque praticamente in due anni, in due stagioni, sono usciti ben 9 album da parte di questo progetto, e noi andremo proprio a pescare l'ultimo lavoro, che è del 2011, però uscito per la Destille, Lose Today di Starcase. E Starcase è composto da John Olson e Nate Young, che sono personaggi che si muovono nella scena del nuovo noise americano nato negli anni zero, soprattutto legati anche dall'esperienza importante, abbastanza conosciuta anche tra noi gli addetti ai lavori, dei Wolf Eyes, gruppo rumorista estremista assolutamente innovativo nella scena newyorkese degli anni zero. Il Starcase è un progetto parallelo, uno dei tanti progetti che hanno portato avanti i componenti anche di Wolf Eyes, che si muove in un terreno più appunto minimale, informale, un po' assurdista, film recording, suoni, costruzioni sonore sbilenche, completamente incollocabili dal punto di vista di genere e di sviluppo e di idea concettuale, ma è proprio questa razionalità decomposta che esprimono al meglio. Ci andiamo a sentire proprio un brano da Lose Today, uscito proprio nel 2011, ultimo lavoro, ultimo album, poi sono uscite anche delle compilazioni, delle altre collaborazioni, ma questo diciamo è l'ultimo album ufficiale. Ci andiamo ad ascoltare una traccia per aprire di nuovo il mondo delle percezioni stranianti e della razionalità decomposta. Buon ascolto. Mm-hmm. Thank you. Ecco, diciamo, ci inseriamo proprio nello scroscio degli applausi di questo live. Abbiamo mixato chiaramente Starcase con la loro estraneità e la loro alienazione dal suono mainstream e da ogni catalogazione compositiva, a un altro elemento straniante, dirompente e piuttosto rumorista come il pazzo di Bill Orcutt, musicista ormai piuttosto considerato nel mondo della sperimentazione chitarristica, ma non solo. Bill Orcutt, infatti, nato a San Francisco in California, è un chitarrista sperimentale che ha iniziato già dagli anni 90, soprattutto col progetto Harry Pussy, a portare avanti le sue sperimentazioni, diciamo, dentro una progettualità che si muoveva all'interno di un noise, ma anche con degli elementi post-punk rock assolutamente unici, ma accomunata a un linguaggio, una ricerca sperimentale d'avanguardia. Poi ha portato avanti parallelamente anche dei progetti solitari, personali, come Bill Orcutt, e abbiamo proprio ascoltato da uno splendido lavoro uscito proprio nel 2014, l'ultimo album interamente da solo, uscito per la Palialia Records, Gertie Love Pussy del 2014, e un estratto di questo album con un performance live, con una chitarra estremamente ruvida, rumorista e straniante, oltre che estranea forse anche a degli elementi sonori piuttosto comuni anche nell'ascolto nell'ambito sperimentale chitarristico. Da Bill Orcutt ora, dentro il nostro percorso di estranietà e di straniamento, andiamo invece a trovare la prossima formazione. Si tratta di The Shadow Ring, nata nel 1991 come progetto musicale, composta dal chitarrista Graham Lambgick e dal percussionista Darren Harris. Poi il progetto si è anche allargato con altre partecipazioni musicali e si è mosso nell'ambito di un'elettronica piuttosto aperta, variegata, che si muoveva sia su degli echi krautrock, di un'elettronica spaziale, appunto cosmice music legata al krautrock tedesco e non solo, ma poi anche verso una certa elettronica che si muova anche sull'ambito del field recordings, dunque microfonazioni di suoni, di ambienti, di voci, di rumori, all'interno di un'idea estremamente informale e appunto anche come percezione sensoriale, in questo caso sonora, rispetto all'ascoltatore. Anche in questo caso troviamo un progetto che spinge molto verso lo straniamento, verso lo scollegamento rispetto anche al tipico ascolto, alla concentrazione, ma proprio a lasciarsi andare verso lidi piuttosto strani e anche indefiniti, quasi in una forma di cancellazione mnemonica di quello che stai ascoltando, ma cercando solo di percepire, di lasciarsi trasportare dall'onda sonora e dalla sensazione che questo suono, che questa composizione ti può provocare nell'ascolto. E andiamo ad ascoltare da The Shadow Ring, dunque apriamo un capitolo un po' differente, più legato a un'idea elettronica, l'album che in realtà è una compilazione dei migliori materiali della produzione di The Shadow Ring degli anni 90, ma anche degli inediti, da Remain Unchanged, uscito nel 2012. Ci andiamo ad ascoltare subito e ci tuffiamo dentro le atmosfere stranianti di The Shadow Ring. To hear with dust in our ears. I like it in my cave. Just me and the world phone. Just me and coffee bean. And the phone's knocking. Round two. Round two. we're all toying tonight, talking, broken down, like cable cat. Grown man in panic jungle, let's imagine the 16th century, let's go the whole nine yards. Soul, West Cornwall, North Coast, ship, fish. Graham Lake from the Gold Coast. Hey, I'll go on. 350, slightly smaller. 350, look, you want a little bargain there. Hey, another couple there, thanks, Britta. Hey, a couple there, look, who wants them two? Hey, £3, bloody hell. Hey, £10 of roasting food for £3. Hey, we're going back in time. Hey, look at these, big ones, these are. Yeah, look at the meat on that. Could have come off one of them prehistoric monsters, one of them megasauruses. Yeah, go on, who wants that one? 260. 260, that one there. Absolutely lovely, 260. Is this all of them? 260. You got some more? Good man. Hey, I've got one slightly bigger, but still under £3. 270, that little lot. They are unbelievable for roasting, casseroles, curries, baking, boiling, stewing. Hey, under the nice big old pot with it. Siamo rientrati in diretta, abbiamo ascoltato anche questa parte finale di queste tre tracce collegate dall'album di The Shadow Ring, Remains Unchanged 2012, e danno un'idea della elaborazione straniante di questi autori, di questi musicisti, muovendosi, diciamo, nelle prime due tracce, detto un field recording, su un minimalismo straniante, con suoni, rumori, elettroniche, ma anche chitarre distorte e rumori di fondo, chiacchierici, parlati, anche pseudo cantati o vocalizzazioni di qualche sorta, per poi passare alla terza traccia, un'apertura assolutamente spaziale, elettronica, che lascia sicuramente anche esterrefatti e sorpresi, oltre che straniti, gli ascoltatori, che non si aspettano sicuramente un'apertura di questo tipo. E da The Shadow Ring andiamo a trovare una formazione semi sconosciuta composta questa, due musicisti molto particolari che sperimentano non soltanto nell'ambito musicale ma anche in tutte le forme, diciamo, artistiche, dalla poesia alla visual art, alle installazioni sonore, anche a proiezioni documentaristiche e filmiche. Si tratta di Dean Blunt e Inga Copeland col progetto Hype Williams, che non è uno degli autori piuttosto conosciuti negli ultimi anni, che si chiama proprio Hype Williams. Questo è un altro progetto, appunto, costituito da questi due personaggi. Il primo album di apertura, proprio di esordio, è intitolato Untitled, cioè non titolato, uscito per la Carnivals nel 2010, e poi l'album che adesso andremo a ascoltare dentro il nostro percorso di stasera, che è un titolo lunghissimo, Find Out What Happens When People Stop Being Polit and Start Getting Real, uscito per la Distill. Dunque ritroviamo la Distill anche in questo lavoro, in questa produzione, anche questo album uscito successivamente all'album d'esordio tra il 2010 e il 2011. Il progetto ha avuto una vita piuttosto breve, si è praticamente concentrato tra il 2010 e il 2012, poi non è uscito più niente quasi per quanto riguarda questo progetto, se non un paio di singoli, ma hanno portato avanti anche però molte collaborazioni con altri artisti piuttosto assurdisti e un po' dadaisti, come d'altronde sono il progetto di Hype Williams e in parte anche quello che abbiamo ascoltato poc'anzi di The Shadow Ring. Ma un altro elemento, un'altra caratteristica delle percezioni stranianti di stasera, della decomposizione e della razionalità. Ci andiamo a sentire dunque una traccia, anzi non una traccia ma anche qua tre piccoli frammenti. L'album è costituito da moltissimi frammenti collegati fra di loro, un album che nell'ambito proprio musicale tra i critici è stato considerato un disco molto interessante, e a questo punto ci addentriamo dentro questo universo malato di Hype Williams. L'album non ve lo ripeto ancora perché è lunghissimo, poi sicuramente mi inceppo e faccio una figura abbastanza barbina, ricordo solo l'inizio, Find Out What Happens When People puntini puntini puntini. Andiamoci ad ascoltare i brani che abbiamo selezionato: Blue Dream, Veltroning e Untitled. Buon ascolto. E siamo rientrati, sicuramente assurdista queste tre tracce collegate, le prime due che si muovono in una dimensione elettronica piuttosto aperta, spaziale, però appunto estremamente straniante, soprattutto il secondo brano che ho mixato col primo, che si sposta verso delle ritmiche e anche dei suoni molto elettro anni 80, e poi questa parte finale dove il nastro viene manipolato e queste voci vengono riportate in una forma di reverse quasi orrorifico. Qualcuno poteva inquietarsi, girava anche queste fantomatiche favole o leggende metropolitane di tanti gruppi degli anni 70 che si muovevano anche con questi nastri e questi brani che si potevano riascoltare al contrario, che contenevano messaggi subliminali o messaggi quasi diabolici, insomma qualcosa di vero, qualcosa di falso, qualcosa appunto legato alla leggenda metropolitana. Comunque estremamente interessante questo lavoro, questo album e questo progetto Hype Williams, lo ricordo ancora. Se siete curiosi troverete le informazioni ovviamente sul nostro blog, se siete curiosi ancora prima che sarà pubblicato qualcosa di questa trasmissione andatevela a cercare, ci sono molti canali via internet per trovare questo progetto, ma non andate a finire sopra invece l'Hype Williams più famoso, più pop e più conosciuto, andate a cercare quest'altra formazione, insomma i canali ci sono. Un album assolutamente interessante, assolutamente straniante e assurdista, dadaismo, assurdismo, surrealismo, riportato dentro un po' il discorso di stasera di percezioni stranianti, della decomposizione della razionalità. In questo senso devo ricordare, perché ci sentiamo vicini, mi sento vicinissimo a quell'esperienza radiofonica, che il 9 febbraio, due giorni fa, c'è stato proprio l'anniversario, 40 anni dalla prima trasmissione di Radio Alice, che fu proprio il 9 febbraio del 1976. Due giorni fa c'è stata anche un'interessante visione a Bologna di un video che raccontava, documentario, di quell'esperienza di Radio Alice, di compagni di movimento che insomma hanno vissuto poi carcere, lo sgombro, la chiusura della radio da parte della polizia, il sequestro di moltissimi materiali che poi sono andati persi, ma è stata una radio sicuramente unica, come tante radio libere nate dal movimento degli anni 70, il movimento antagonista e anche autonomo degli anni 70, che poi ha lasciato anche in eredità molti progetti e molte realtà radiofoniche, che poi un po' chi più chi meno si è snaturato, chi più chi meno si è venduto, chi più chi meno ha mantenuto una certa linea legata al discorso aperto, al discorso collettivo, al discorso di una radio che raccoglieva anche i disagi ma anche i desideri, le assurdità e le invenzioni e le fantasie di molte persone che in realtà se no rimanevano semi sconosciute o parte di un movimento molto più ampio, ma l'individualità attraverso Radio Alice riuscivano ad emergere dentro un progetto collettivo, ed era proprio la massima sintesi e simbiosi di un progetto radiofonico assolutamente unico, che molti ricordano chi l'aveva vissuto e molti lo rimpiangono chi non l'ha vissuto come me stesso, ma ha potuto raccogliere tanta documentazione cartacea, racconti degli stessi protagonisti e anche qualche materiale audio. Ricordo ancora una vecchia trasmissione, quando non eravamo ancora qui a Radio Città Fujiko ma in tutt'altro posto, che non voglio nominare, l'innominata, dentro un'altra dimensione radiofonica, avevamo proprio fatto nel 2007 all'anniversario trentennale del 1967 una trasmissione interamente dedicata a quel periodo, avevamo anche inserito alcuni materiali audio che eravamo riusciti a recuperare di Radio Alice. Radio Alice comunque rimarrà come esperienza, ha comunque seminato molti elementi che poi molti conduttori, molti programmi, in alcuni casi anche alcune radio per un certo periodo anche successivamente hanno mantenuto. E ci avviamo verso il prossimo progetto dentro il discorso di percezioni stranianti, la decomposizione razionale, una razionalità decomposta. Andiamo a trovare Robert Harman, un musicista che si muove nell'ambito del minimalismo, ha portato avanti dei progetti più e meno interessanti, in questo caso il primo album proprio di apertura della sua produzione musicale, Flux, uscito per la Not On Label nel 1981 e poi rimasterizzato e ricalibrato nel 2012, e si muove appunto in una linea minimalista, estremamente minimalista, con questa linea pseudo pianistica che si muove nel corso di un flusso proprio sonoro, che dà un'altra dimensione della percezione straniante, della percezione sensoriale estraniante e distaccata, appunto quasi separata dalla dimensione conscia. Dunque entriamo un po' nell'inconscia attraverso questo flusso sonoro. Ce l'andiamo ad ascoltare, Robert Herrmann, Flux.